B alto, quindi non ti ascoltiamo. Mannaggia, ci ha messo lo spagnolo di mezzo e copre l'altro. E stava arrivando adesso. Santiago 7 c'ho io. E invece lo spagnolo 7 e mezzo. Solo mi sta arrivando 3 e mezzo, 4. Questo è 7 adesso. Ecco lo spagnolo maledetto. Becco, a pigliarla. Sì, ma c'è un bel di preparazione. Poi vabbè, oggi ci sono un sacco di collegamenti anche in 40, quindi. E ci sono i contest, li stavo ascoltando. Abbiamo fatto anche noi un'attivazione. Vabbè, io sono andato a mangiare a bere, non è che. Ah, e dove l'hanno fatta l'attivazione? Porto Conte. Bello. Peccato per il. Vabbè, ce l'hanno fatta oggi per il tempo. Sì, avevamo. Non so se è presente, visto l'hai. Vabbè, aspetta, non so, sto sbagliando, La prova di Tramariglio, ok? Va avanti ancora. Vabbè, io non conosco molto bene le località, se non il navigatore. Come hai ricevuto, diciamo, dai? Vabbè, lì alla torre eravamo. Alla torre c'è una casa, fianco alla torre, e noi eravamo alla casa. Proprio alla fine, dai. Ah, vabbè, ma all'interno della casa? Sì, la casa è di un attore. Ed eravamo lì. Ah, vabbè, no, ma allora per il tempo non c'è problema. No, credo di quelle attivazioni con batterie, tavolini, antenne piazzate così su pali improvvisati, qualcosa all'aperto. Ah, sì. No, qua eravamo più riparati, dai, ciao. Almeno avevamo un tetto. Gianni, che radio è? Quale? Questa. Questa è il Cobra. Ciao, c'è subito di questo. Questo, che adesso vabbè, no, l'ho tolto. Manco le prove abbiamo fatto. Con la prova dell'antenna dobbiamo fare, Marco, quando ti decidi. Telefono. Oh, Gianni, ma il Cobra qual è? Quello digitale? Quello che avevi preso tu digitale? No, questo qui è un altro Cobra. Questo qui è un Cobra che è un signor Cobra. C'ha la pancia sotto e dietro. Non ce l'ho presente. Perché quello digitale era molto bello, però quanto mi hanno detto non era una schizza, dai. No, non mi ha entusiasmato manco a me, è bello come estetica, ma se non gli fai qualche lavoretto a quello lì non mi piace come esce, capito? Non era molto performante come usciva. Questo qua è un apparecchio molto bello, diciamo che non è un apparecchio nuovo di coso, è di altri tempi, si chiama Cobra 200 GTL GX, guardalo, Cobra GTL GX. Mi sembra di averlo già visto, spero, lo guardo. Ma te l'avevi venduto quello già? Cosa? Vabbè, non l'avevi venduto quello? Quello che ho venduto, no, l'ho fatto uno scambio. Gava. Ah, questo è quello pancione, quello che c'ha la pancia sotto. Sotto e dietro. Che c'è una bombetta. Non funziona, cuzzino. Vabbè, stavo guardando un video, però vediamo se trovo l'immagine. Aspetta, GTL TX mi hai detto? Sì. No, vabbè, la pancia sopra in che senso? Non lo vedo. Al frequentimetro poi ha la stessa Cobra sotto lo smitter verde. La pancia si intende dissipatore. Vabbè, ce l'ho affrontare io, quindi non lo vedo. Ce n'è uno sotto e uno dietro per dissipare il calore. Sì, ma dovrebbe essere quello che ha il frequentimetro un po' rettangolare, non è neanche tanto quadrato, e ha la scritta Cobra sotto, verde scritta. Sì. Cos'ha? Quattro tastini sotto anche, c'è questo. Sotto c'è i tastini, poi sopra c'ha due manopole, due tastini, sotto c'ha quattro manopole più la manopola del canale. Sì, è quello. È molto bello, anche a me piace questo qua. È adattato, però già è bello, c'è il frequentimetro. Si presta bene a fare modifiche quello. Questo questo qua allora costava 700 euro. Vabbè, io con 700 euro non l'avrei mai preso. Gusti e colori non si discutono, non entro in questo argomento perché magari se può piacere te lo prendi, a me sinceramente con 700 euro mi prendo un HF con le palle sotto. Ma io non l'ho preso 700 euro, l'ho preso a seconda mano, sì, l'ho pagato meno, però sto parlando del prezzo iniziale, era quello. Guarda, con 700 euro ti compri un Yaesu, l'FT 950 con colonia e microfono, ti puoi immaginare se faccio un paragone con un baracchino. Sì, ma sono tutti discorsi strani, perché a uno può piacere, per dire, di più il baracchino, di quegli apparecchi che dici tu, come quello che si trucca la macchina, ci spende una marca di soldi, si mette l'impianto supersonico, ma sempre rimane una 500, una 500 Abarth. Ho visto certe che hanno speso anche 22.000 euro per fare tutte le modifiche, tutte le cose, ruote larghe, tutto l'impianto stereo e cose, però è passione, capito? Sì, tu mi dirai, si poteva prendere con quei soldi, si poteva prendere una macchina più grande, ma lui mi azzeghissa, Sì, ma infatti non voglio entrare in questo discorso perché, ti ripeto, gusti e colori non si discutono, ognuno ha le sue scelte, ed è giusto che sia così, per carità. Io parlo di me personalmente, quindi non metto mai avanti le altre persone, perché ti posso dire che io ho tre A48, per dire, il primo mio, addirittura il mio primo che ho iniziato, ce l'ho ancora, e da lì sono partite modifiche, malevare, e sono arrivato ad avere la stessa qualità di quello che magari lo compri con 300-400 euro, ma non mi interessa, capito? Sì, ti ho capito quello che vuoi dire. Sì, ma a me piacciono tutti e due, infatti è questo che io non mi accontento, mi piacciono tutti e due i tipi di apparecchi, però niente, questo qua mi è piaciuto molto, mi è piaciuto, l'ho visto acceso, sì, mi ha subito entusiasmato come apparecchio. Sì, adesso rilanciamo Franco che è in parcheggio. No, ti volevo far vedere un altro, anzi volevo dire un altro che mi è piaciuto molto anche a me, americano, adesso non mi ricordo neanche qual era, il TX mi sembra che era, però non mi ricordo di che marca era, anche me ne volevano 900 euro, ma lascia perdere, no. Basta, dai, riprendi che se adesso trovo ti dico qual è. Questa è la riprendo io. Sì, spendere soldi in baracchino non vale la candela, comunque ti è preferibile un HF, fai tutto, capito? Fai dove vuoi, ascolti dove vuoi e tutto, col baracchino sì, prendo colpi, cioè è bello, il cover è bello, a me mi piace un apparecchio, però costano un casino di soldi, capito? E la mia mano, l'S9 costa un pacco di soldi lo stesso, non so trovarne ancora. E poi ce ne sono tante altre, tutto lì, capito? Ok, dai, rilanciamo a Marcolino, vai Marco. Marco deve essere Federico Goffo e allora riprendi Gianni. Sì, è bella la radio Gianni, il Cobra. Sì, è bella. Vabbè, quella che ho io, a me mi coprono l'occhio, tutte quante mi piacciono, dico la verità, perché a me oltre che uscire bene la radio mi deve anche piacere. Quel cobra che dice Tino, quello lì l'ho dato perché non mi entusiasmava come usciva, non era performante, non era forte come radio, non era una radio che mi entusiasmava più di tanto, capito? Invece ci sono certe radio che mi entusiasmano di più, per dire, il 3009 è un baracchinetto, però non prende splatter, esce bene di radio, eccetera, e mi piace lo stesso, cioè, me l'ho comprato perché mi piace. E niente, andava bene, va bene così. Riprendi Tino, dai. Sì, mi dovete scusare, ma io mi devo montare dalla radio, dai, che ho due cose da fare fuori. Nel caso, se coincido, più tardi, ok? Dai, ciao, a dopo, ciao Gianni, ciao a tutti. Ciao, ciao Tino, dai, buon corretti, ci sentiamo. Grazie per il questo. Avanti, avanti, Fra. Ciao Tino, buon corretti, buon tutto. Ce l'ho risolto le prossimine. Ok, sì, già è definito. Ma qualcosa lì si poteva modificare la radio, bastava aprirlo un po', girarmi prima e la portavi più alta la radio, non era un problema, capito? E lo so, ma lo lasciamo sempre fermo, dico la verità, mi piaceva come estetica, poi andavi a usare la radio, non è che sia molto bella, è bassa, bomba, provate a mettere i microfoni, cose, non rendeva. Perché poi la parte da dentro, c'è il primo da toccare, se esce forte, tutto lì, anche perché c'è il microfono, c'aveva tutto quello, no? Sì, poi si faceva di 4-5 colori, verde, ambra, si faceva blu, si faceva bianco, si faceva rosso, si faceva di tanti colori, bastava che tu toccassi un tasto, lo mettevi come ti piaceva a te. Allora, quello, 200, più di 200 euro adesso. 218 mi pare che costa, una cosa del genere. E vabbè, non, è stato un acquisto un po' sbagliato quello lì secondo me. Di tutti gli acquisti che ho fatto forse quello è quello che mi ha entusiasmato di meno. Vabbè, sono delle belle radio, e vabbè già, c'è una cosa che non ti piace, c'è poco da andare. No, infatti, questa invece mi entusiasma molto, mi piace molto come radio. Allora c'è anche l'eco. Sì, ce l'ha l'eco. Prova a vedere. Ma mi innesca, non capisco perché. Ah, come vai? Oh, attenzione. Hola, attenzione Franco, mi ascolti, cambio, così c'ho anche il parlascolta, capito? Così c'ho col parlascolta. È un eco normalissimo. Ora, 1, 2, 3, prova. Attenzione Franco, ora forte esce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma non mi piace come eco, sembra voce da robot. Sento anche parlascoltami, quando attacco quello c'è il parlascolta insieme all'eco. Però dico l'eco, non è quell'eco uom, c'ha un eco. Attenzione, Franco, vedi che mi fischia, perché ci sono le casse fischia. Perché c'è le cuffie, capito, e ti fa rientro. Fa rientro con le altre radio, non so, c'è le cuffie. Comunque il parlascolta lo posso mettere, capito, basso lo posso mettere. Aspetta. 1, 2, 3, prova. Così mi... Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Così mi ascolto, capito? Ma ecco, non ce l'è adesso, c'è solo il parlascolta. Guarda, potete mi lasciare anche mio, l'eco. Cavagata. E così già può andare, dai. Così può andare. Aspetta, 27.0. Aspetta un secondo. Attento Gianni, doppio rumo. Ascolti questa piccola modulazione della città di Sassari, Capocamo e Capocamo. Questo che apparecchio è fra? Questo è il Magno S9, capo. E la gandufina è il Magno S9. E questo l'ho preso da poco, capo fratello. Ma si usa che il Magnum questo, non è ecco del Magnum questo. Capo, capo. Gianni. Io di Magnum ne ho avuto due, e questo qui non è l'ecco del Magnum, non mi butti a me. Capo, capo. Gianni, John, oh John. L'hai dato tu quell'apparecchio, quello tipo il mio, va? Cava, sì. Tatto l'hai, Cava Gianni. Perché? Cazzo, perché era bello quell'apparecchio, perché l'hai dato, quello che hai preso a tempo. Cava di positivo, fratello, sì. Che quello bello che c'avevi l'hai dato, cosa me ne facevo? Ne ho una marea di questi baracchini già, dai. Cosa me ne faccio? Ma io sto parlando di quello che usciva con 100 watt, di quello grande, quello che ho comprato a team. Quale quello con 100 watt? Quello, quanti watt usciva? Quello, cos'era? Un magnum. Ma è lineare? È il magnum, quello che esce con tanti watt, quello lì l'hai dato. No, quello c'ero in campagna già. Perché pensavo che l'avessi dato, dai, perché un tempo era in vendita, mi pare, no? Era in vendita, ma quello lì ce l'ho giù in campagna. Non lo sto usando, lo volevo portare su a provare a metterlo qua, ma non me ne faccio niente qua, dai, è sprecato già. Questo qua che c'ho io, il valore che c'ha non lo paga nessuno. Sì, preferiscono prendersi un HF per prendere questo, però a me mi piaceva, me l'ho preso perché tanto 4,54 ho pagato anche un Alan 48 modificato e quindi potevo prendere anche questo allo stesso prezzo. Guarda che io ne ho uno di 48 modificato qua, capito? Ce l'ho fermo buttato nell'armadio. No, io non ne ho, io l'ho venduto il mio, l'ho dato a uno di Urbia, a un autista che veniva da noi, mi stava facendo l'accorto, io gli ho fatto sentire, ah che bello, vendimelo, alla fine gliel'ho venduto. 4,5 gliel'ho venduto, 4,50, c'era biliardo, eh. Beh, sono delle radio modificate, vanno bene, usciva un bel forte quello lì, capito? Usciva forte, ed andavano bene, dai, diciamo. Questo se voglio glielo metto, l'eco, ma non mi piace, a me l'eco non mi piace. Sì, se l'eco è buono, lo metti appena, di eco è bello, non è brutto. Brutto è quando lo mettono troppo alto e farsi di nuovo, ripete troppo, allora è brutto, vuole regolato bene l'eco. Guarda, adesso c'è l'eco. Come mi ascolti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova, 1, 2, 3. Va bene, ti do una spinta in più, non è forte, non è fastidioso, è leggero, però ti dà una bella spinta in più. Sì, vabbè, a chi piace, ti piace. A me non è che mi piace Alecco Gianni, capito? Glielo puoi lasciare un po', però non mi piace. Preferisco la radio normale, capito? Senza eco, così com'è. Te lo ricordi Nino Torre Bravo che usciva sempre con l'eco dalla macchina? Tappa di positivo, questo è il Tanner più 3 Gianni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo sai quello, vabbè, quello che ti ho detto, esce con gli apparati radioamatoriali, esce col Tanner più 2, ha detto che col Tanner più 3, ha detto che l'MC60 lui non lo soddisfaceva, e lo soddisfa molto di più il Tanner più 3. Questo che sto utilizzando io è un Tanner più 3, capito? Ma tu non lo stai usando con l'apparecchio radioamatoriale? No, negativo, io l'ho collegato al baracchino questo. E io il mio l'ho dato. Mi stava rompendo le scatole, ogni tanto dovevi mettere le lamelle a posto, via. Io gliel'ho detto a quello, no, non ti preoccupare che già me lo sistemo io, le metto bene io le lamelle, tanto ce le ho anche nuove. Cava, io ne sto vendendo uno a 100 euro, chi lo vuole, nuovo. Di che cosa? Di Tanner. No, io me non serve. Tanto difettano tutti, c'erano quelle lamelle che difettano, non mi piacciono più. Mi piacevano prima, adesso da quando mi ha dato fastidio, quello lì mi ha rotto le scatole. Devo stare sempre a prenderlo, mettendo le lamelle giuste, poi sbagliavi, dovevi riaprirlo, oh, io casino. Questo bene va, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, prova 1, 2, 3. A quanto ce l'hai? Ce l'ho quello di Bossuri, a 2. Mettila al massimo a vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questo qui pompa forte adesso al massimo. Questo quello grigio è fra. No, quello nero. Quello mi piace a me, quello nero. Gabe, andava bene. Via. Ce l'aveva a 2, adesso l'ho aumentato. Capito? Ora. Cabra. Non posso ancora aumentare, eh. Davvero? Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso sì che bella performante la radio. Prima era più moggia, là. Adesso per da voci. Cabra, va bene così. Così è da battaglia, fra. La più che abbassare. Ma così esce forte veramente. Ma la basso perché se lo spacca le orecchie. Io ne avevo una di capsa di Altare più 3, non mi ricordo più dove l'ho messa, fra. La volevo piazzare sull'MB più 4 e vedere come andava. Ma questo che sto utilizzando io è nuovo. Ma questo vuol dire che non c'ha un graffio. E io c'ho l'MB più 4 che l'ho modificato e c'è bene abbastanza, vero? Ma che cosa sto utilizzando adesso? Va benissimo. Che va. E poi siete buoni sempre a comprare i microfoni, basta, io non compro più niente, già mi sono stufato. Sempre così diciamo, poi ci vediamo qualche cosa e ce la prendiamo. Siamo stati sempre così, anche io dicevo sempre, non me ne prendo più, poi vedo qualcosa che mi piace, ma che bello. Infatti potete andare uguale a tutto. Il fatto è che c'è poca gente, se no guarda, questa è una bella passione, non è dispendiosa perché non ti accontenti mai, vuoi fare sempre meglio, cosa, è dispendiosa come passione, però è una bella passione, dai, è una passione sana e addirittura... un tempo si faceva anche prevenzione incendi, eccetera, eccetera. Io molte volte ho fatto pattugliamento di notte, eccetera, per antincendio. E ne ho segnalato diversi di incendi. Una volta si è incendiato un fienile sulla 131, cazzo. Questo qua è il lavoro di tutta quanta la mia vita, di tutto l'anno, tutto andato in fumo, disperato la poveraccia. Guarda questa se ti piace come radio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, è bella già, ma era meglio là. Vabbè, questo è il microfono normale, Gianni. Allora va bene. Va bene. Questo che apparecchio? Questo è l'ARA 48, normale col suo microfono. Beh, non è a livello dell'altro, quell'altro è, diciamo che è prima amplificato, questo no. Acciugabito. Questo già va bene lo stesso, dai. E lo accendo ogni tanto, altrimenti si rovinano. Vabbè. Acciugabito. Mi pare che io vado perché devo portare giù il cane, anche se non si sta lamentando perché è drumido, però devo portare giù, dai. Poverino. Anche lui ha diritto di fare i suoi bisogni. Ci sentiamo fra, dai, buona serata, grazie per il QSO, ci sentiamo magari domani, dai, perché poi non riaccendo, non penso di riaccendere e mi guardo il televisore, poi secondo cosa c'è, perché Gerry Scotti mi pare sia finito tutto, no, lo show del record non c'è più. Ma lo so Gianni, sei finito, va bene dai, io ti saluto, buon aperitivo, tutto e ce la riascolto alle prossimine, saluto gli eventuali SWL per me QRT, ciao a tutti. Ciao, fra.